Clock che andrà avanti fino nel cuore della notte. All'interno di questa trasmissione cercheremo di metterci in contatto con Stefano Giaccone, fondatore dei Franti e attualmente Franti MM, che ricordo suonerà insieme a Roselux e Umbra il 9 dicembre, sabato prossimo, a Forte Prenestino in sostegno di Radio Onda Rossa. E quindi dopo tenteremo questa chiacchierata andando un po' a ricordarci del passato e anche delle prospettive di Franti MM. Un saluto ad Alessandra qui da Roma, Maya dall'Argentina, Antonio da Firenze, Raffaele da Napoli. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e ricordo che questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani, insieme al sito ovviamente della radio, verranno pubblicate la playlist e il podcast di questa trasmissione. E infine il lato sottoscrizione 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma, ma nel sito ci sono anche le modalità più elettroniche. Inoltre in radio si può trovare la nostra, diciamo, più famosa autoproduzione, che è la Scarceranda. Si trova qui nei vari centri sociali con le relative iniziative. Questo giovedì, per esempio, domani al Nido di Vespe, al Quadraro. Cominciamo proprio con il buon Raffaele Pezzella, ormai di casa qui a prove tecniche di trasmissione, sia come Anesplay Sounds, la sua etichetta e il suo portale di appassionati di musica sperimentale, ma anche come musicista, come sonologist. E da poco è uscito questo nuovo lavoro, che credo sia anch'esso stampato insieme alla Cold Springs, un'etichetta inglese storica. Appunto, da Apocalypse ci andiamo ad ascoltare System Collapse e Prayers from Nowhere. ancora sonologist. Intanto salutiamo il buon Alessandro della Grazia Obliqua qui da Roma, da Apocalypse sonologist. Thank you. uno degli album più inquieti di Sonologies di Raffaele Pezzella, questa Apocalypse. Si può intuire anche dal titolo che si tratta di parlare della decadenza del nostro pianeta da molti punti di vista. È accolto nel segno Raffaele Pezzella con le sue musiche e le sue strutture sonore, come al solito abili e profonde. Apocalypse esce attraverso una costola in realtà della Nespless Sounds, che porta il nome di Eight Hour Records, che cura l'aspetto più ambient degli interessi di Raffaele Pezzella. Intanto si è giunta a noi Antonella dalla Sicilia, la salutiamo, e noi da Napoli, città natale di Raffaele, andiamo in Germania e andiamo un po' a sentirci un personaggio che riesce a concepire dei quadretti graziosissimi sospesi tra il neofolk ed elettroniche. Sto parlando di Art Abscons, una notevole produzione discografica, live altrettanto interessante. Lui canta mascherato, si sa poco di lui, si sa malapena il nome. Questa sera abbiamo Le Sentier Eternel, i sentieri eterni. Le prime due tracce si chiamano Die Zeit ist tot e Das Saltam Jahr. Long forsaken. Tage verstehen, was die Dunkelheit war. Nur wer das Licht in sich bricht, den kümmert es nicht, was der Irrtum gebar. Und wer die Leere empfand, wird beim Namen genannt und der Fülle gewahr. Was schön war, wird endlich wahr und strahlt offenbar in diesem seltsamen Jahr. Wir steigen hinab in die Tiefen des Traums und lösen gemeinsam die Rätsel des Raums. Wir schließen die Augen und sehen im Dunkeln des unsterblichen Strahls. Verborgenes Funkeln, es ist schön. Seltsam und schön. Es ist schön. Seltsam und schön. Und wer die Nacht übersteht, wird am Tage verstehen, was die Dunkelheit war. Nur wer das Licht in sich bricht, den kümmert es nicht, was der Irrtum gebar. Und wer die Leere empfand, wird beim Namen genannt und der Fülle gewahr. Was schön war, wird endlich wahr und strahlt offenbar in diesem seltsamen Jahr. Salutiamo Nicola Locci dalla Sardegna. E noi invece ci siamo ascoltati questo Art Abscons, questo artista proveniente dalla Germania. Michael Tellbach, una sintesi interessantissima tra neofolk, elettronica, giri di psichedelia come sta andando sotto la mia voce. Sono tre elementi principali che vanno a comporre l'arte di Art Abscons, primo lavoro del 2008, Spectral Magic, e poi diverse uscite fino a cose recenti. Questo era un album invece del 2012 dal nome Les Sentiers Eternels. Lo stesso Art Abscons lo andiamo a ritrovare invece in una collaborazione insieme a Luftwaffe, dando la vita a Nomonclast, altro progetto più o meno assimilabile a questo genere, anche se qui c'è una spinta leggermente più elettronica. Un lavoro di qualche anno fa dal nome Gather Together. Ci ascoltiamo Machine e A New Way. Faith. This is the world they made. the quiet, sterile room. Nothing rips, flesh. We are the machine. Gears grind, bones. We are the machine. They raise their armies, a specter of courage. They cannot be conquered. They do not need courage. They're cowards. This shall be their victory. As death rains from above, a little man and a box in a quiet, sterile room. This final hurdle, the meek inherit the earth. Beyond this final hurdle, the tomb, this is a place of dreams. This is a realm of hope. Our successor is conceived in a quiet, sterile. children of the peasant class are just bought and sold from behind a desk. And he reaches for his dossier and he turns another page. So the nightlife is unfettered for the rebels back home. Dunque ci siamo buttati in questa prova tecnica di trasmissione un po' ad analizzare una scena neofolk abbastanza trascurata, questa degli Art Abscons, ossia quella precedente degli Art Abscons, e questi americani dal nome Nomonclast. Neofolk marzial e volitivo, devo dire, con questi cori molto molto forti, molto fisici, tamburi di ordinanza, come si suol dire. Un'operazione gestita dalla Old Europa Cafè, questa nostra etichetta italiana, assai abile anche nel ristampare e diffondere materiale proveniente da altre etichette molto più di difficile reperibilità. '21:39, onda rossa con prove tecniche di trasmissione. Ricordo che intorno alle 22 cercheremo di metterci in contatto con Stefano Giaccone, fondatore dei Franti e ora membro dei Franti MM, che suoneranno sabato prossimo in quel del Forte Prenestino a sostegno di Radio Onda Rossa. Abbiamo avuto ospite la scorsa settimana Tiziana Lo Conte e i suoi Rose Lux, e abbiamo anche, come dire, riparlato del suo passato con i Gronge. E quindi non è un caso che siamo andati a riprendere il primissimo mini album dei Gronge dal nome Classe Differenziale, un lavoro che era del 1985. Ci ascoltiamo CADC, Giorno Fatale, Graffiti. Yeah. Era l'esordio per quanto riguarda i grunge. Si chiamava Classe Differenziale, un lavoro che uscì in cassetta e con un mini album autoprodotto. E allora erano Alessandro Denny, Tiziano Lo Conte e Marco Bedini. Allora la batteria. Una prima fase della loro carriera che terminò con Tecnopunk Cabaret del 1993, poi 14 anni di silenzio affinché poi Marco Bedini ha riesumato e riformato i grunge con Maurizio Bossao e vari ospiti, spesso presente anche Paolo Tabaglione dei Carillon del Dolore, famoso chitarrista della scena italiana. Stupendi questi controritmi, quasi da avant jazz, un po' di industrial, un po' di dark, gothic e molta creatività. Andiamo avanti, un altro pezzo di storia, Throbbing Gristle, sempre per ricordare la morte 7 anni fa di Peter Christofferson. Il 24 novembre del 2010 ci lasciava. E abbiamo qui Mission of the Souls, l'ultimo live, l'ultimo lavoro ufficiale di Throbbing Gristle. E ci ascoltiamo Distant Dreams Part 2 e Something Came Over Me. We'll be right back. Something came over me. Something came over me. And I don't know what it was. No, I don't know what it was. Or was it white and sticky? Or was it white and sticky? Well, I don't know what it was. No, I don't know what it was. Something came over me. Something came over me. Yes, I rather like it. So I'm doing it again. Yes, I'm doing it again. Something came over me. Something came over me. And I don't know what it was. No, I don't know what it was. Or was it white and sticky? Or was it white and sticky? Well, I don't know what it was. No, I don't know what it was. But I rather like it. Yes, I rather like it. So I'm doing it again. Yes, I'm doing it again. Something came over me. Something came over me. Was it white and sticky? Was it white and sticky? But I'll do it anyway. Yes, I'll do it anyway. Do it anyway. Do it anyway. Do it anyway. Yes, I'll do it anyway. And something came over me. And if something comes over you, well, do it anyway. Yes, do it anyway. Do it anyway. Presentarono un salutare shock culturale per quegli anni, stiamo parlando del 1975 addirittura, quando uscirono quasi in epoca pre-punk questi Throbbing Gristle, vero e proprio manifesto di intenti della scena industrial, compresa la loro etichetta che si chiamava proprio Industrial Records. Questo era Mission of the Souls, l'ultimo atto diciamo ufficiale, questo live, e non solo, del 1981. Poi molte compilation, molti, come si suol dire, bootleg, molti live, una sterminata produzione fino al 2010, quando morì Peter Christopherson. Ovviamente da menzionare la splendida voce di Genesis P. Aldridge e le trame puntuali di Cosi Feni Tutti e Chris Carter. Grazie ad Antonio, in quel di Firenze, che ci ha mandato delle foto interessanti di Throbbing Gristle, e un abbraccio anche a Carlo qui da Roma.